Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Siamo nel 1960, l'agente di polizia Neri Guglielmino viene chiamato dal gestore di una pompa di benzina di San Concordio sulla strada che da Lucca porta alla bussola di Focette. Qualcuno si è chiuso nella toilette da un'ora e mezzo. Quando l'agente entra forzando la serratura si trova davanti una scena degna di un film di Tarantino. Il lavandino è sporco di sangue, in un angolo con una siringa in mano c'è un uomo in piena crisi di astinenza perché non riesce a trovare la vena con la mano poco ferma. L'uomo balbetta qualche parola in un italiano stentato, ma Guglielmino non riesce a capirlo. Solo dopo un po' comprende il suo nome, Baker Chesney Henry. E se non avete capito chi è, ve lo faccio dire da un nostro ascoltatore che si chiama Valentino Cecchetelli. Buongiorno Valentino. Buongiorno. Di dove sei, Valentino? Di Marino, in provincia di Roma. Ah, ascolta Valentino, tu ci hai chiesto di parlare di un grande musicista. Sì, un grande artista, veramente, uno che suonava la tromba in maniera eccezionale, intimista, cioè un modo particolare di interpretare appunto il suono della tromba. Esatto, e allora, insomma, stiamo parlando di Chet Baker. Cos'è che ti affascina di lui? È un po' tutto, diciamo, il modo di suonare e poi questa vita, ecco, di alti e bassi. Sì, terribile. Le sue vicende tutte personali. Mi ha fatto pensare il colpo d'ali, ecco, appunto. Al colpo, esatto. Valentino, ti ringrazio, sì. Buon ascolto. Grazie, ciao, a te, Valentino. Buon lavoro, Enrico. Grazie. Grazie. Ciao, ciao. Chet Baker, e torniamo a quel lontano fine luglio del 1960. L'agente della polizia non può far altro che portare in questura l'uomo perché è in possesso di sostanze illegali. In quegli anni così si faceva. In realtà quella che Chet Baker ha con sé non è droga, perché l'eroina si trova ancora molto difficilmente in Italia. Lui si deve accontentare di un potente analgesico che si chiama Palfium, che era lecito in altri stati europei, vietato in Italia, dove la legge sui narcotici già allora era durissima. Anche per questo la notizia che un famoso musicista americano si droga in un bagno in Italia fa scalpore. Baker viene condannato a 16 mesi di carcere da scontare a Lucca. Yeah, I was locked up in 62. Mi misero in galera nel 62. No, scusa, era il 60. Mi persi quel capodanno e poi mi fecero uscire un mese prima per il capodanno del 61, in modo che non restassi in carcere sia a Natale che a capodanno. È stato in Italia. Comunque sì, ho trascorso dei brutti capodanni, delle brutte feste di capodanno. Some bad New Year's Eve parties. Ecco, avete appena sentito la sua voce, la voce di Chet Baker, il grande trombettista, forse più grande trombettista bianco del secolo scorso. E oggi parliamo della sua grande musica, ma anche della sua vita tormentata e dei tanti terribili capodanni della sua esistenza. Torniamo ancora a Lucca, in quel 1960. Il processo desta molta sensazione, i giornali pubblicano grandi titoli con una frase pronunciata dal pubblico ministero che definisce Baker faccia d'angelo e cuore di demonio. Questo per un tranquillante iniettato, insomma, per farvi capire com'era l'Italia in quegli anni, augurandoci che sia cambiata. È un'espressione veramente di altri tempi, però in realtà riassume in un certo senso la vita complicata di Chet Baker, che è nato con il dono della musica ma che ha vissuto con la maledizione della droga. La mia casa è nel braccio sinistro. È una frase sinistra che riassume bene la storia di Baker, e tutto quello che lui ha guadagnato è finito nel suo braccio sinistro. Una storia che inizia il 23 dicembre del 29 a Yale, in Oklahoma, un paesino di agricoltori di neanche 2000 persone. Lui nasce nella fattoria della famiglia di sua madre e siamo appena a 2 mesi dal crollo di Wall Street, dall'inizio della depressione. Insomma, non è un grande momento. Il padre Chesney è un musicista che gira per il paese in cerca di qualche scrittura, e proprio suonando a una festa rurale incontra Vera, la madre. Chesney è bello, ci sa fare. Vera, che ha 18 anni, si innamora. I primi tempi del matrimonio sono felici. Anche per Chet quegli anni dell'infanzia sono anni pieni di cose buone. Mia madre era nata nella stessa fattoria dove nacqui io. Mi ricordo gli alberi da frutta, ettari di cocomeri, grandi granai rossi che avevano strani odori. C'erano cavalli, mucche, maiali. Avevo l'abitudine di camminare lungo gli appezzamenti di meloni. Poi ne prendevo uno, lo spaccavo e me lo mangiavo sul posto. Ma ce ne andammo quando ero ancora piccolo. Ci tornavo durante l'estate. Nel frattempo ci trasferimmo a Oklahoma City. Ma c'è la crisi, il padre non trova lavoro come musicista, lavora per una società petrolifera, chiude anche questa, si trasferisce a Oklahoma City con la famiglia in cerca di un'occupazione, lavora in una radio. Chet ricorda che da piccolissimo il padre lo portava con sé mentre cantava alla radio. E poi un altro licenziamento e si va in California, tutta la famiglia nella West Coast, con i primi tempi molto difficili per Chet. A scuola lo prendono in giro per il suo accento da contadino, anche per l'aspetto troppo curato. La madre lo manda in giro pettinato e vestito come un principino. Questo non l'aiuta perché i problemi sono lì, ma anche a casa. Perché a casa l'atmosfera è pesante, il padre beve, picchia la madre, che scarica le sue frustrazioni soffocando il figlio con le sue attenzioni. E allora il padre vuole sottrarlo all'influenza della madre, lo vuole coinvolgere con la musica e gli regala il suo primo strumento. Sentiamo proprio Chet Baker che ci racconta com'è andata l'intervista in italiano, una lingua che lui parla abbastanza bene, anche perché dopo 16 mesi di carcere la lingua la impari. Quando aveva 13 anni la mia padre ha portato a casa un trombone, perché lui è piaciuto molto Jack Teagarden e volevo che io suonare trombone, ma io ero molto piccolo a 13 anni e non arriva alle note basso con le cose. Allora dopo 2 settimane, 3 settimane ha portato via la tromba e portato a casa una tromba. Ha cominciato così. E per Chet questa è una rivelazione. Non ci sono soldi per prendere lezioni. Lui impara a suonare da solo. Però evidentemente è un genio, perché dopo solo 2 settimane ripete a orecchio molte canzoni, si esercita la tromba per ore, tralascia lo studio dove fino allora eccelleva. La madre non è felice, ma è chiaro che per Chet il suo amore è quello per la tromba e non finirà mai questo idillio se escludiamo la droga. Suona su ogni disco che trova, soprattutto sui 78 giri di un altro trombettista molto forte, giovanissimo, Miles Davis. Non avevo mai veramente capito quello che volevo fare fino a quando non ho sentito Miles. Il falco e il gabbiano. Il protagonista della nostra storia è il grande trombettista Chet Baker e lo abbiamo lasciato mentre impara a suonare la tromba, ragazzino autodidatta, ha un orecchio incredibile. Non è un innovatore nella sua vita, non ha scritto dei pezzi, ma ha sempre avuto la capacità di interpretare ogni brano in una maniera personalissima. Riguardo alla sua conoscenza della musica, sentiamo cosa ci dice il pianista Russ Freeman, che ha suonato a lungo con lui. La domanda che negli scorsi anni tutti si sono fatti è: Chet Baker sa leggere la musica? Chet Baker conosce l'armonia, la struttura delle canzoni e cose così? La risposta alla prima domanda è sì, sapeva leggere la musica. Di certo riusciva a riconoscere una nota dall'altra, ma soprattutto aveva un orecchio incredibile e una memoria incredibile. Così, quando prendeva la nota e sapeva quale fosse la nota, riusciva a suonarla, ma non sapeva niente di armonia. Non riconosceva un accordo da un altro. Anzi, a essere sinceri, c'erano volte che non sapeva in quale tonalità stesse suonando. Lo so che suona ridicolo, ma conosceva la melodia perché aveva ascoltato la melodia. E allora diceva: con che note inizia? Io gli davo la nota e lui iniziava a suonare. E suonava tutti i cambi e seguiva tutto quello che accadeva. Ma se gli chiedevi in quale accordo fosse quella canzone, rispondeva: non lo so. Ed era vero, non lo sapeva. Ma la grande capacità di suonare a orecchio di Chet Baker gli fa guadagnare un posto nella banda dell'esercito, perché lui si arruola nel 46, non ancora 17 anni, viene mandato a Berlino, in Germania, suona anche nell'orchestra ridotta che l'esercito schiera per le occasioni particolari, i balli, le feste. Rimarrà in Germania fino al 48, poi torna in California, ma ormai ha scoperto il jazz e, complice anche il fatto che i risultati dei test psichiatrici non erano un granché, riesce a lasciare l'esercito per provare a fare il musicista per davvero. Siamo agli inizi degli anni 50 e lui sta iniziando a frequentare i club di jazz della West Coast. Sono anni meravigliosi musicalmente parlando, è l'epoca del bebop, i musicisti in giro sono gente come Gillespie, Parker, Thelonious Monk, Max Roach. Chet inizia a suonare con il gruppo di un vecchio amico e dopo un po' riesce a entrare nel gruppo del sassofonista Stan Getz. Il vero colpo d'ala di Chet è quando ottiene un'audizione per il grande Charlie Parker. Quando i miei occhi si abituarono all'oscurità, mi guardai intorno e vidi una quarantina di trombettisti lì dentro. Tutti i trombettisti di Los Angeles. Ero lì solo da 5 minuti. E forse qualcuno aveva parlato di me a Bird già da prima, perché dopo aver finito un'audizione che stava tenendo con uno dei trombettisti, chiese se ero nella stanza. Io risposi, sì, Bird, sono qui. E allora mi disse di farmi avanti e suonammo 2 pezzi insieme. Alla fine prese il microfono e annunciò che l'audizione era terminata e che avrebbe ingaggiato me e che ringraziava tutti di essere venuti. Andò così. That was it. Così a soli 22 anni Chet entra a far parte della band di Charlie Parker per alcuni concerti sulla West Coast. E per il giovane trombettista è veramente un sogno che si avvera, ma anche per lui, per Charlie Parker, per Bird come lo chiamano, sentire suonare Chet è una vera e propria sorpresa che confessa al fotografo William Claxton. Quel giovanotto ha suonato in modo puro, semplice, capisci cosa intendo? Qualcosa in lui, nel suo modo di suonare, era puro, era semplice. E l'ho avvertito subito, dopo pochi secondi. Lui era quello giusto. Chet è quello giusto, non solo musicalmente, ha carisma, ha un'attitudine, conquista, intanto è anche bello, somiglia un po' a James Dean, come lui ha uno sguardo un po' timido, distante, piace moltissimo le ragazze piacciono molto anche a lui. Comincia abbastanza presto, a 15 anni, ha già le sue prime storie serie, poi si sposa con Charlene, poi le cose non vanno tanto bene anche perché lui, come dire, indulge anche all'extraconiugalità. Difficile rimanere fedeli con quella faccia così, poi insomma già per il musicista è una cosa difficile per antonomasia. Claxton ricorda benissimo la prima volta che si rendono conto tutti della bellezza di Chet. Corsi a casa a sviluppare la pellicola. Qualche ora dopo iniziai a stampare le foto del quartetto. Tutti i musicisti erano giovani e belli, ma il volto che spiccava su tutti era quello del giovane trombettista Chet Baker. Quando le immagini latenti iniziarono a prendere corpo sulla carta attraverso la pallida luce rossa della camera oscura, era la faccia di Chet a venir fuori come per magia. Il suo volto era così fotogenico, era il sogno di ogni fotografo. Insomma, Chet Baker sembra avere tutto. È bello come un divo di Hollywood, suona così bene da essere scelto da Charlie Parker per andare in tour. Gli inizi sono fantastici. Il giovane trombettista viene trattato bene, considerato, viene sostenuto, apprezzato e Charlie Parker cerca di tenerlo lontano dalle brutte frequentazioni perché a quel tempo ogni jazzista che si rispetti sembra avere un problema con la droga e Charlie Parker peraltro è il primo della lista. Il suo modo di vivere è fatto di eroina, cocaina, litri di whisky, di cognac e i pusher lo aspettano fuori dai club nei quali si sta esibendo. All'epoca del tour in California lui è appena uscito da un periodo di disintossicazione che durerà per un attimo. Al suo rientro a New York tutto riprende come prima e Charlie Parker muore a soli 34 anni per una serie di complicazioni legate alla sua dipendenza. Come ci racconta Russ Freeman, la droga è considerata a quei tempi la normalità per tutti i musicisti. The drug situation in California, as it was in New York. La faccenda della droga in California non era come a New York. Sfortunatamente fu iniziata da Bird, perché Bird era un drogato. E credo che in qualche modo fossimo tutti fuorviati dall'idea che se andava bene per lui, allora andava bene per tutti noi. Ed era la cosa giusta da fare. Di conseguenza, quasi tutti i musicisti che conoscevo a quel tempo, fine anni 40, inizio anni 50, si facevano tanto di eroina. Quasi tutti. Ma a quel tempo Chet, anche se tutti sappiamo che ha avuto a che fare con la droga per tutta la vita, non si faceva. Fumava molta marijuana, tanta, ma niente droghe pesanti. È solo una questione di tempo, perché ancora qualche anno e l'incubo dell'eroina inizia anche per lui, per Chet Baker. Il falco e il gabbiano. Stiamo parlando del grande Chet Baker, un trombettista conosciuto in tutto il mondo che ha avuto un rapporto particolare con l'Italia, è un posto dove lui ha suonato moltissimo, un musicista diverso rispetto a tutti gli altri jazzmen. In realtà prima avevo detto che non è un innovatore, ma ha un suono talmente particolare che, pur non avendo inventato un tecnico, aver scritto qualcosa, si notava appena suonava. Cioè il suono di Chet Baker era veramente di una personalità unica, e poi cantava bene. Per tutta la sua vita lui ha amato cantare, non aveva una voce potente, aveva una voce esile, ma proprio questa delicatezza forse è stata proprio la sua cifra stilistica, anche se le prime volte è stato difficile incontrare il favore del pubblico, perché è il periodo dello scat, dove più che la melodia importano i grandi virtuosismi vocali. Pensate a Ella Fitzgerald. Bene, lui canta e basta, in modo quasi piatto, in modo spoglio, essenziale. Ci sono state diverse reazioni quando ho iniziato a cantare. Soprattutto molte persone pensano, stupidamente, che a causa del modo in cui canto mi piacciono i ragazzi o qualcosa del genere. Posso dire che queste sono solo un mucchio di stronzate. Una delle prime canzoni che canta è la celeberrima My Funny Valentine, che lo fa conoscere. Il canto, insieme alla collaborazione con la band di Parker, contribuiscono a fare circolare il nome di Chet Baker negli ambienti giusti del jazz californiano. Il trombettista si guadagna un nuovo ingaggio con un altro sassofonista molto famoso, anche lui molto famoso in Italia, Jerry Mulligan. Insieme a Bobby Whitlock al basso, a Chico Hamilton alla batteria, danno vita a un quartetto molto innovativo per l'epoca, soprattutto perché manca il pianoforte. In breve diventano tra i musicisti più conosciuti di cool jazz, il jazz dei bianchi, più melodico, meno preoccupato di generare novità armoniche. Cool jazz is much more subtle. Il cool jazz è molto più sottile. Va ascoltato con molta attenzione, devi conoscere, devi essere capace di confrontarlo con tutto quello che conosci. Per dire, nell'hot jazz, sai che tutto sarà più rumoroso e più aggressivo. Il quartetto riscuote enorme successo, nonostante i due leader della formazione si detestino, non possono essere più diversi. Chet è istintivo nel suo modo di suonare, Mulligan è preciso, conosce profondamente la musica, l'armonia, non sopporta un approccio totalmente, diciamo, casuale, ma insomma è un approccio tutto fatto a orecchio, a sensazioni, dice Baker. Si dice che durante il primo incontro avesse subito rimproverato Chet, tanto che quest'ultimo lo mandò a quel paese appena iniziato il riscaldamento. Il quartetto rimane in vita 2 anni, il 52 e il 53, ma ci lascia incisioni meravigliose, anche se dura poco. Jerry è così incazzato perché sono stato in grado di farcela da solo, anche senza di lui. Non lo sopporta. Avrei dovuto essere il suo trombettista per tutta la vita e per salari ridicoli. Non mi avrebbe mai permesso di crescere, mentre io sono stato votato il miglior trombettista al mondo. In effetti, dopo aver lasciato Mulligan, Baker mette su una sua band. Nel 55 viene votato come miglior trombettista d'America e ha solo 26 anni. Però il destino a volte sa essere beffardo, perché quando sembra che ti stia dando tutto, ecco che è pronto a riprendersi tutto con gli interessi. Quando la stella di Baker sembra essere allo zenith, inevitabilmente inizia anche la discesa. A 27 anni, in 1957, ha cominciato a prendere le droghe. Che droghe? L'eroina. E poi è andato giù, è finito in galera tante volte, finalmente ha cominciato a scrivere le ricette medicali per la droga, poi è stato arrestato per scrivendo le ricette. E l'eroina porta sempre con sé una discesa agli inferi, senza eccezioni, e così di gradino in gradino torniamo a quella prigione di Lucca nel 1960. Lui rimane 16 mesi in carcere e grazie alle guardie italiane gli viene permesso di suonare la tromba, e così per mesi i giovani lucchesi si trovano verso sera sotto le finestre del carcere a ascoltare le note del musicista americano. Nonostante il carcere l'abbia costretto a disintossicarsi, appena esce e torna alle cattive abitudini, soprattutto alla droga, anche perché una volta in America si rende presto conto che gli anni d'oro del jazz stanno lasciando il posto all'ondata rock. Lui deve solo vivere, ma senza più toccare i vertici. Non è un bel vivere tra spacciatori che vogliono i soldi, manager senza scrupoli che si approfittano del suo pessimo senso degli affari e del suo disperato bisogno di soldi per poter comprare l'eroina. In realtà l'eroina trasforma anche in peggio, perché fino a questo momento noi abbiamo dipinto Baker come un essere indifeso e travolto dagli eventi, ma come tutti gli eroinomani dice bugie, è cattivo, è violento, è crudele con le sue donne, quando non ha l'eroina sta male, e peraltro con le sue donne ha anche la colpa di averle sempre costrette a provare l'eroina per condividere con lui questa terribile esperienza, che è un'altra caratteristica del drogato di eroina, cioè voler fare mal comune mezzo gaudio. E il punto più basso lo tocca nel 66, 37 anni, deve dare dei soldi a uno dei suoi pusher, non li ha, viene picchiato a sangue e gli viene fracassata una bottiglia sui denti, perde tutti i denti anteriori, non può più suonare. Ha perduto tutti i miei denti sopra, ha lavorato in una stazione di benzina, 7 della mattina alle 11 della sera, 6 giorni per settimana, ha fatto così per molto tempo, e finalmente ha deciso che così non mi dai molto soddisfazioni da vivere, e pensato che sono qui in questo mondo per fare una cosa e una cosa solo, da fare la musica, e deve cercare un modo, un sistema di suonare e cominciare dal capo. Beh, pensate, il più grande trombettista del mondo che lavora tutta la settimana in una pompa di benzina, e questo per un motivo solo: per colpa dell'eroina. Ma lui ricomincia da capo anche grazie agli amici, quando Dizzy Gillespie scopre com'è finito, gli dà i soldi per comprarsi una dentiera e lo invita a riprovare con la tromba. Quando ha ricevuto la prima dentura ha provato a suonare e non riesce a fare neanche una nota. Cambiamento di posizione di labbro, di denti, ha provato per 3 anni di trovare un sistema personale e finalmente ha trovato. Ha fatto le note lunghe, ha fatto tutti gli esercizi che fai tutti trombettisti personali, tutte le scale, gli intervalli, le note lunghe. Meglio di tutti fare le note lunghe che cominciare piano piano. Beh, 3 anni in cui non si tratta di colpi d'ala, si tratta veramente di riemergere dall'abisso con tutti i problemi, con la droga, l'inaffidabilità, le menzogne. Però questa volta il suo lento colpo d'ala per scrollarsi il fango dalle ali riesce. Dopo 3 anni lui riesce a tornare a suonare in pubblico. Però non è più lo stesso, non è solo il suono della tromba, l'America non lo vuole più questo tossico. E lui ci prova, va in ospedale, ma non fa tempo a uscire che di nuovo a bucarsi, a vivere alle spalle delle donne che incontra. È una specie di Dorian Gray al contrario, perché tutto il marcio che c'è in lui gli affiora sul viso, la faccia d'angelo dei primi tempi, quelli che erano stati anche immortalati in alcuni film, non c'è più. Adesso c'è un uomo solo, con le guance scavate dalla tossicodipendenza, con le rughe che gli segnano il volto, con le braccia piene di buchi, indossa vestiti maleodoranti, si lava poco, frequenta la feccia della società, ha tradito tutti, gli amici, la famiglia, ma soprattutto se stesso. Continua a suonare perché non gli rimane altro. Non si può cambiare la mia vita, cosa deve fare? Non so, solo suonare la tromba e cantare. E questa è la mia vita fino a che non può respirare più. E se l'America non lo vuole più, c'è sempre l'Europa, dove si può continuare la vita di sempre. Perché in Europa lo amano, soprattutto in Italia. Io l'ho conosciuto, l'ho visto due volte in Italia, una volta ad hoc, che era un programma che faceva Arbore in televisione, abbiamo suonato i due gli artisti invitati, eravamo lui e io, e poi sono andato anche a vederlo in un concerto meravigliosamente triste al Capolinea, dove lui si esibiva in pantofole, dove però la sua tremenda vita di sofferenza traspariva a ogni nota. Lui in Italia in qualche modo ce la fa, accetta qualsiasi ingaggio, anche in luoghi non alla sua altezza, perché deve raggranellare i soldi sufficienti per poter continuare questo suo tremendo matrimonio con l'eroina. Alla fine degli anni 70 lui è in Europa, sono anni in cui suona molto. A detta di molti la sua musica non è più all'altezza delle performance dei primi anni 50, ma lui non è d'accordo. After 40 years of playing, I mean... Dopo che suono da 40 anni, le mie idee sono cambiate in qualche modo. Non nella sostanza, ma ho scoperto molte cose in più rispetto alla tromba e su quello che posso farci, rispetto a quello che sapevo nel 1952. Adesso siamo nel 1988. In tutti questi anni ho accumulato esperienze e fatto musica. Quindi è normale che in tutto questo tempo sia cambiato, che abbia fatto dei progressi. Spero di aver fatto dei progressi. Mi spiacerebbe essere tornato indietro in tutto questo tempo. I'd hate to be going backwards all this time. Io che l'ho visto suonare posso dire che i progressi c'erano, ma i progressi più terribili erano quelli continui nel suo uso di droga. Lui racconta a se stesso che si sta ripulendo, ma la sua storia è quella: droga e musica. Le quantità che consuma ogni giorno sono enormi, non solo di eroina, ma metadone e speedball, che è quella mistura terribile tra eroina e cocaina. I am 57 years old. Ho 57 anni. E non c'è un'altra maniera, un altro modo in cui riesca a sopravvivere 5 giorni di fila. Non c'è altro modo. Chet Baker è stato forse l'unico grande musicista jazz che per 30 anni ha percorso fino in fondo il sentiero della dannazione senza mai ricredersi. Ha bevuto l'amaro calice fino in fondo. Non so se è stato un profondo senso di autodistruzione o perché veramente la sua natura era corrotta, aveva un buco enorme da riempire, però in realtà per 30 anni lo interessa solo la musica e la droga, non la gloria, non certo la ricchezza, non l'amore delle tante donne che gli sono state vicine, neanche l'amore per i figli, ne avrà 4 che non vedrà quasi mai, a cui ovviamente non lascerà nulla. Insomma, incredibilmente lui resiste, quasi se ne stupisce anche lui, come sembra in questa intervista. Il 1987 mi ha portato un dono meraviglioso. Sono ancora vivo. Spero di riuscire a sopravvivere. Ho avuto con me per tutto l'anno Diane, un dono che un uomo deve saper apprezzare. Quest'anno ho avuto molto successo per tutto l'anno, tanti club, tanti auditorium, case della cultura, case della gioventù. Erano tutti pieni e spero che l'88... Beh, non deve essere migliore. Se è buono come l'87, mi va già bene. Ma non sarà così. L'epilogo di questa storia avviene proprio nel 1988, a Amsterdam. In una serata primaverile lui ha prenotato una stanza in un albergo di terza categoria vicino alla stazione, come sempre, e lo aspetta un concerto. Quando non si presenta, all'inizio i promoter non si preoccupano perché sono abituati ai suoi ritardi. Poi dopo qualche ora iniziano a temere il peggio, ed è così, perché il peggio è lì sul marciapiede davanti all'albergo. Per terra c'è Chet Baker in una posizione fetale, sembra che dorma, se non fosse che c'è qualcosa di innaturale nella posizione. Il volto è insanguinato, lo scopre un passante alle 3 di notte, è caduto dalla finestra. Nessuno sa se è caduto per caso o di proposito, non c'è traccia di droga nel suo corpo. C'è chi parla di suicidio, che immagina un pusher che ha reclamato con troppa veemenza i soldi che gli spettavano. A noi piace pensare a un'immagine, una foto scattata a Baker proprio a Lucca qualche giorno dopo che è uscito di prigione, in una stanza d'albergo, una foto che ricordo perfettamente, sta suonando la tromba seduto sul davanzale della finestra, come faceva sempre, forse ha fatto così anche a Amsterdam e forse si è sporto un po' troppo per cercare ancora una volta la sua buona stella. Ci sono storie di persone che nella loro vita hanno saputo dare un colpo d'ala, ma ci sono storie di persone che hanno combattuto tutta la vita per riuscire a volare anche solo un attimo, anche solo suonando la tromba, perché suonando la tromba Chet Baker era il più grande di tutti, ma purtroppo non era capace di vivere una vita normale. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, visitate la nostra pagina su radio24.it oppure venite a trovarmi e a trovarci nei miei e nei nostri social, Facebook, Twitter, insomma, se volete sapete dove sono. Ciao, a domani. Sono stanco, voglio dormire.